superiore. Quando risponde deve dire superiore. Io non lo sapevo, superiore. Raccoglie tutto, la cella deve essere tenuta in ordine e pulita. Sì. Scusi, secondino. Secondino, una cippa di cazzo, superiore. Ma superiore a chi? Superiore a che cosa? Ma che fate? Ma no, niente, il regolamento, sono le impronte digitali. Come impronte digitali? Ma che sono, un delinquente? Tempo qui dentro è come un lago fermo. Ai nostri occhi di sale, in questa calma di vento. È un tempo fatto di vetro, un tempo fragile e denso. Le grida appese alla notte, qui sul confine del mondo. Siamo i figli di mezzo della storia. Non abbiamo né uno scopo né un posto. Non abbiamo la grande guerra né la grande depressione. La nostra grande depressione è la nostra vita. Siamo cresciuti con la televisione che ci ha convinti che un giorno saremmo diventati miliardari, miti del cinema, rockstar. Ma non è così. E lentamente lo stiamo imparando. E ne abbiamo veramente le palle piene. Guardo il sole che sfuga dentro a sta cella. Se in buca scacchi nel cielo. Posso guardare. Non sai la quantità di soldi che hai in banca. Non sei la macchina che guidi, né il contenuto del tuo portafogli. Non sei i tuoi vestiti di marca. Sei la canticchiante e danzante merda del... Liberare tutti vuol dire lottare ancora, vuol dire organizzarci senza perdere un'ora. E allora, buongiorno. Buongiorno a tutti e tutte, sono le 15 e 3 minuti primi adesso ed oggi è 13 luglio, siamo in pieno luglio caliente, non da oggi, quest'estate ci regala dei pomeriggi, comunque delle giornate caldissime, e lo diciamo non perché sia un problema per chi sta fuori, ma perché sappiamo quanto è duro dentro al carcere avere queste calure contro le quali non c'è possibilità di combattere, non c'è il ventilatore, men che meno l'aria condizionata. Ci sono degli accorgimenti che il sapere carcerario ha messo in piedi, però insomma, e quindi comunque l'augurio a chi sta dentro è di libertà, ovviamente, non solo di frescura ma soprattutto di libertà, perché anche col caldo la libertà si sopporta bene. Dunque, oggi è appunto il 13 luglio, quindi questa trasmissione è l'ultima di questo periodo estivo, poi come le altre trasmissioni faremo una pausa estiva e ci risentiremo, per chi volesse venire qui magari ci vediamo pure, ci risentiremo comunque la prima settimana, il primo mercoledì di settembre, che mi pare sia il 7 settembre. Il 7 settembre faremo la trasmissione, però sarà una trasmissione di saluti, perché questa trasmissione la conta dopo 15 anni di attività, praticamente cessa la sua attività come questa forma, perché le cose non sono eterne, soprattutto a me non piacciono le cose eterne, men che meno, e anche le trasmissioni devono avere una verifica con la realtà, una verifica che quindi deve dimostrare di aver segnato tensioni, conoscenze, e quindi la possibilità che ci siano altre persone sicuramente più giovani in grado di mettere in piedi altre trasmissioni, altre iniziative contro il carcere. Noi ovviamente saremo sempre nell'ambito di dare un contributo a chiunque, questa radio ma anche su internet, dovunque ci sia un dibattito, nelle piazze soprattutto, sarebbe molto più interessante nelle piazze ci sia un dibattito sul carcere. Noi quindi questa trasmissione, ma soprattutto la prossima, quella finale, la dedicheremo a fare un po' il punto di questi 15 anni di racconti sul carcere. Cercheremo di dare una risposta: che cos'è il carcere e che cos'è la repressione. Non una risposta definitiva, ovviamente, ma semplicemente una serie di domande che rivolgiamo a voi e a noi stessi per cercare di tenerle in piedi, perché poi la domanda è quella che mantiene viva l'attenzione, insomma, la voglia di dare risposte. Intanto abbiamo però già sulla Repubblica di questa mattina c'è un intervento del ministro della giustizia Orlando, Andrea Orlando, che dice qualcosa che non che sia interessante o bello assolutamente, ma che ci conferma le indicazioni che abbiamo ormai da molti anni dato, ossia dello spostamento dell'attività repressiva da tenere al centro la detenzione carceraria a quella del controllo territoriale. Dice infatti Orlando ha partecipato a Palermo a un dibattito di questi che si fanno d'estate, però c'erano un sacco di persone, avvocati, magistrati, più che altro avvocati erano. Ha detto queste parole, ve le leggiamo. Allora, il tema era espiazione della pena e diritti fondamentali della persona, cioè queste due cose assolutamente non coniugabili, non si può coniugare i diritti fondamentali della persona, che poi anche questi sono variabili storicamente, no? Come sappiamo bene, e soprattutto non si può coniugare i diritti fondamentali della persona con l'espiazione della pena. Non c'è pena che sia in rapporto con il diritto della persona. La pena vuol dire sofferenza, imporre sofferenza a una persona significa violare i suoi diritti a stare stare bene col proprio corpo, col proprio se stessi, e quindi non è coniugabile. È una delle solite frasi per dire rendiamo la pena, ossia la punizione, ossia la sofferenza, umanamente accettabile, un po' come il discorso delle guerre umanitarie. Facciamo la guerra perché evidentemente gli interessi, il traffico d'armi, l'espansione imperialista eccetera hanno bisogno della guerra, però diciamo che la facciamo umanitaria, che poi non vuol dire niente, muore gente lo stesso, muoiono umanitariamente, una parola come vedete fa ridere anche il bisticcio, nemmeno le parole si legano perché fanno legare la lingua, perché è talmente assurda, no? La guerra umanitaria, però anche la pena umanizzare la pena è altrettanto diciamo assurdo. È meno grave perché lì si tratta di morte, ma anche qui non è che si scherza. Cioè, l'espiazione della pena e i diritti fondamentali della persona non sono coniugabili. Però questo dibattito tentava di coniugare, e che cosa diceva sostanzialmente? Tentava di dire facciamo in modo che la pena, cioè l'espiazione della condanna perché per chi ha violato la legge, sia fatta non in quel luogo praticamente ormai che non difende più nessuno, che è il carcere, ma in situazioni diverse. E quindi, perché poi gli avvocati, l'associazione dei difensori della Sicilia, di Palermo, l'ordine degli avvocati di Palermo aveva convocato questo dibattito, e quindi tentavano, appunto loro tentano, stanno dalla parte di chi sta in carcere, diciamo, ovviamente gli avvocati, e cercano di fare questa battaglia per addolcire la pena. È un po' il discorso che fanno i radicali: facciamo in modo che i diritti di chi sta in carcere, di chi subisce una condanna, siano importanti, sottolineati, forti, e insomma hanno chiamato Orlando, che ha detto una cosa molto, cioè ha fatto questo excursus di dati, dice nel 2015 in Italia sono verificati 44 suicidi e tantissimi, non ha detto quanti, sono diverse migliaia, lo sappiamo noi, lui non l'ha detto perché il numero avrebbe fatto impallidire, comunque episodi di autolesionismo, rifiuto del vitto e altro, e quindi il problema Orlando è partito, ha detto un carcere organizzato così come oggi non serve nemmeno per garantire la sicurezza. Un'affermazione del ministro della giustizia molto importante, cioè il carcere non serve a niente. Questo ormai è nella consapevolezza di tutti coloro che hanno analizzato da una parte e dall'altra, non necessariamente dalla parte di chi vuole cambiare questa società, ma da tutte le parti, le persone che ragionano che hanno provato a ragionare, ormai sono circa 100 anni che viene analizzato in maniera molto dettagliata il sistema carcerario, e che via via si è scoperto che sempre meno serve a garantire la sicurezza dei cittadini, che pure è l'aspetto ambizioso che perseguono i politici, perché vogliono i voti dei cittadini. Quindi questa prima affermazione è molto importante: non serve nemmeno per garantire la sicurezza. Quindi nemmeno per garantire la sicurezza vuol dire che tutto il problema di rieducazione e reinserimento, quelli proprio l'ha buttati via, perché sono il portato della stupidità umana. Chi ancora parla di rieducazione e reinserimento ha dei problemi con se stesso, cioè della sua capacità intellettiva, è una delle più grosse stupidaggini. Il carcere infatti qui dice qualcosa di interessante, che poi ne tragga le conseguenze, questo è tutto un altro discorso, però dice: il carcere, dice è Orlando, il ministro della giustizia, il carcere costa ogni anno 3 miliardi di euro, questo l'abbiamo detto ormai da anni, questo è il problema che gli scotta, 3 miliardi di euro, e il paese, ossia l'Italia è il paese con la recidiva più alta d'Europa, cioè la gente che esce dal carcere torna a fare quello che ha fatto per andare dentro, e questo dimostra che c'è una necessità di fare attività extralegali, non è una scelta. Poi, questa è l'affermazione importante: chi invoca il carcere oggi in nome della sicurezza in realtà cavalca una società ansiosa e propina una truffa. Questa è l'affermazione più importante. Ci ha detto chi parla oggi di carcere, qui tutte le forze politiche che cercano voti dicono: ah, mandiamo in carcere questi, e lì le categorie, gli immigrati, i zingari, i giovani, ognuno ce la prende con qualche soggetto, mandiamo in carcere tutti perché così tuteliamo la sicurezza. Andrea Orlando, il ministro, ha detto prima ha detto che costa tanto e che non serve assolutamente a garantire la sicurezza, ma poi ha specificato: chi invoca il carcere in nome della sicurezza in realtà cavalca una società, una parte della società ansiosa e propina una truffa, perché non è vero che il carcere produce sicurezza, nemmeno di quelle persone che vivono appunto uno stato ansioso, perché hanno praticamente quasi niente, quei quattro merci che li fanno assurgere al ruolo di consumatori, li hanno fatti assurgere, loro credono di aver assunto l'identità del consumatore, perché si sono circondati casa di quattro merci miserabili, però ognuno, chi più miserabili, chi meno, a seconda della possibilità monetaria, si sono circondati di merci. Questo è l'andamento di queste società, di questa società e delle gran parti di società del mondo. Non pensiamo che ci siano isole felici. Questa cultura della merce è quella dominante, totale, e ha preso tutti, non c'è nessuno che sfugge. Capisco i sogni belli che facciamo tutti, però non ci sta, no, situazioni sociali che sono sfuggite a questa sottocultura della merce, dell'assurgere al ruolo di consumatori, che è il ruolo maggiore, massimo. Voi vedete, se avete voglia di andare in giro, qualunque giorno, qualunque ora del giorno, in qualunque giorno della settimana, andate nei centri commerciali e trovate lì la gran parte della popolazione di quella città, di quel quartiere, di quel paese, eccetera. Perché lì dentro non vanno solo per comprare, vanno per calpestare un suolo, il centro commerciale, che è la dimora della merce, è un po', come dire, la cattedrale della merce, e quindi calpestando quel suolo, stando lì dentro, in qualche modo si segnala come aver assunto il ruolo di consumatore. Ora, questi consumatori, queste persone, che abbiamo quattro cianfrusaglie di merci intorno e che le difendiamo col coltello fra i denti, è chiaro che chiediamo carcere, perché pensiamo che il carcere difenda queste quattro chincaglierie che abbiamo. Al di là del fatto che, insomma, togliere la libertà a una persona per difendere la chincaglieria è un discorso che sarebbe da analizzare, che ciascuno e ciascuna potrebbe fare in tranquillità, perché credo non si può mettere sullo stesso tavolo libertà di una persona e qualche merce. Ma al di là di questo, se anche fosse giusto e valido e se si vogliono tutelare queste quattro cianfrusaglie, bene, e non è col carcere che ciò si ottiene. Questo ha detto chiaramente, l'ha detto Andrea Orlando, è la conclusione dei 18 tavoli che hanno fatto, ricordate, lo scorso anno, sono finiti quest'anno, cominciati esattamente un anno fa, sono andati avanti tutto l'autunno e l'inverno del 2015-2016, poi si sono conclusi, ciascuno di questi tavoli in cui sono intervenuti tecnici di tutti i tipi, hanno messo in luce che ognuno affrontava un tema particolare, quindi poi la conclusione è che il carcere non serve veramente più a niente, solo appunto a spendere 3 miliardi di euro. E allora perché? Che cosa serve allora a tutelare? Perché il messaggio ci deve essere, purtroppo, perché appunto la gente, diciamo, la cultura dominante è quella di difendere queste quattro cianfrusaglie che abbiamo intorno. Si difendono molto meglio col controllo territoriale. Questo voleva dire, difatti il discorso che fa subito dopo non dice esplicitamente così, perché si scoprirebbe troppo le carte, però dice noi avevamo qualche, considerate che nel 2011-2012 avevamo 69.000 detenuti, quindi ma è 40.000 posti disponibili, quindi sovraffollamento, disastro eccetera, non ha detto che hanno preso una grossa multa da parte della Corte di Strasburgo per queste vergogne qui, e comunque questo lo sappiamo tutti. Dopodiché appunto adesso invece abbiamo 54.000 detenuti per 50.000 posti, quindi abbiamo quasi raggiunto, diciamo, l'equilibrio, in misura alternativa sono 40.000 persone, mentre allora erano solo 20.000, quindi abbiamo raddoppiato le persone in misura alternativa e abbiamo diminuito fortemente da 69.000 a 54.000 le persone interne in carcere. Non è molto rispetto a quello che voleva fare, però segna una tendenza del fatto appunto di diminuire sempre di più le presenze in carcere e aumentare sempre più le presenze di controllo territoriale. Lui dice così: attenzione, vedete come tuteliamo noi le incaglierie? Considerate, allora erano 69.000 in carcere, 20.000 in misura alternativa, quindi 69.000 più 20.000, 89.000. Adesso sono 54.000 in carcere, 40.000 in misura alternativa, 94.000. Quindi più persone teniamo sottoposte al controllo penale sia interno, che vuol dire in carcere, sia esterno, che vuol dire territoriale. E quindi più persone abbiamo sottoposto a un controllo penale, quindi tuteliamo meglio le vostre incaglierie, le vostre merci, però non col carcere, sempre di più con le misure alternative, ossia col controllo esterno. Questo è il discorso che ha fatto, questo è il discorso che fanno tutti gli esperti, è il discorso su cui ruota. Perché però sta andando così piano? Noi questa cosa l'avevamo individuata parecchi anni fa, chi ci ascolta, abbiamo ripetuto fino all'ossessione che la tendenza era questa, che però c'erano degli intralci. Quali sono gli intralci? Gli intralci sono le corporazioni sindacali delle guardie penitenziarie, perché loro perdono il numero, cioè chiaramente diminuendo le presenze in carcere diminuiranno anche i lavoratori di polizia penitenziaria, che i secondini, è ovvio, oppure dovranno trasformarsi in polizia territoriale, un grosso lavoro, sicuramente un'attività più faticosa, comunque sia, e poi sono i partiti, perché alcune formazioni politiche sanno che di strillare galera porta voti, perché ancora la gente non ha fatto, la gran parte delle persone non hanno fatto questo cambio di attenzione, cioè pensano che ancora le loro merci sono tutelate se la gente va in galera, non se la gente va in controllo territoriale, e quindi ancora strillare galera porta voti. Quando si è in periodi elettorali, e in Italia ci stiamo abbastanza spesso, è chiaro che la parola galera rispunta, quindi chiaramente va lentamente avanti, ma la tendenza ormai è tracciata, ci saranno sempre più spostamenti dalla galera al controllo esterno. È ancora poco, perché voi pensate che per esempio questo processo nato, sviluppatosi in Nord Europa in maniera sia da molto più tempo e in maniera più intensa, più che non è tanto il tempo, in alcuni paesi quando fanno una scelta poi vanno radicalmente giù, non stanno a guardare il giornale, il giornaletto, il palazzinaro, l'Italia invece deve stare tutta attenta a questi equilibri, mafietta, mafettina, palazzinari, mafiosetti, palazzinari meno mafiosi, cioè tutte le varie che sono, non so, i peggiori, come sapete, e lo so, e quindi vanno avanti mentalmente. Voi pensate che in Inghilterra hanno fatto anche loro questa scelta e sono arrivati a 260-270 mila in controllo territoriale in misura alternativa, quindi qui stiamo ancora a 40 mila, ce n'è di strada da fare. Però questo dà la tendenza, che è chiara a questo punto, ormai deve essere chiara per tutti, lo dicono anche loro, i fautori, quelli che praticano la repressione e tutto il controllo penale, ossia di spostare le persone controllate dal controllo interno, sia dal carcere, al controllo territoriale. Abbiamo spiegato mille volte che questo permette un maggior controllo non solo della persona sottoposta a misura preventiva, ma anche tutto il suo contorno, l'ambiente che frequenta, le persone che fa. Il problema è di creare una società di contro, una parte, un pezzo di società di controllati. Questa cosa è tra l'altro nella storia dell'Europa, che è quando a fine del 700-800, nello sviluppo industriale, che però intanto aveva delle grosse crisi, insomma, no? E quindi buttava sul mercato a zero salario, in disoccupazione, quantità enormi di persone, quindi si creava questo afflusso al lavoro stragale di grandissime masse e venivano individuate queste persone improvvisamente rese disoccupate, che si dedicavano, perché bisogna, dovevano mangiare anche loro, all'attività extralegale. Non c'era welfare, non c'era nessun ammortizzatore sociale, e dunque buttavano appunto al lavoro extralegale, e queste vennero marchiate come classi pericolose: i poveri, i mendicanti, i vagabondi, i disoccupati, eccetera, classi pericolose. Il problema non era abolire le classi pericolose, perché significava o ucciderli tutti oppure farli diventare classi operose, cioè inserirli al lavoro, cosa non possibile né l'una né l'altra, quindi rimaneva il problema di relegare e controllare queste aree sociali. Poi la cosa si mischiò, perché poi lo sviluppo industriale intanto ripartiva, quindi in parte di questi venivano riassorbiti, poi c'è stata l'immigrazione interna all'Europa enorme, che rispetto a quella di oggi fa ridere, è il famoso fenomeno, come chiamano, dell'immigrazione di oggi, stante i numeri è abbastanza ridicolo, piccolo, molto piccolo rispetto all'immigrazione, ai movimenti migratori in Europa e dall'Europa oltre l'Atlantico, no, nel Nord America, negli anni alla fine dell'Ottocento e ai primi del Novecento. Lì sono spostate decine e decine di milioni di persone. Decine di milioni, soltanto in Italia 15 milioni di persone si sono spostate, molte, per esempio il Veneto è uno dei paesi, delle regioni che ha dato molta più immigrazione, per esempio in Argentina ci stanno più veneti in Argentina che non nel Veneto, eppure nel Veneto, pensate un po', c'è quel razzismo deficiente che fa capo a Salvini, che insomma lui sicuramente avrà un nonno, un bisnonno migrante, però dice queste baggianate. Vabbè, ma questo fa parte della stupidità umana, è inutile piangerci sopra. Il problema appunto, quindi la tendenza è tracciata, l'abbiamo detto che è più conveniente per il sistema del controllo dell'ordine capitalista il controllo esterno rispetto al carcere, quindi la tendenza è tracciata e quindi si sposterà, con le difficoltà che in Italia ci stanno, perché ci stanno poliziotti, tutti quelli che remano contro e che vogliono che rimanga questa situazione. Insomma, però andrà avanti così. Chi però non si sta attrezzando a quanto succederà sicuramente più o meno rapidamente nei prossimi anni, ossia che il controllo diventerà territoriale molto forte, cioè il fatto che una parte di popolazione italiana, quelli soprattutto dediti al conflitto sociale, verranno bollati con le misure preventive di controllo, no? Firme, controllo, DASPO, eccetera, eccetera, si creerà un'area di popolazione, quelle più attive sicuramente nel conflitto sociale, che verranno bollate, marchiate, e quindi sono lì a rappresentare le classi pericolose. a fianco a loro ci saranno quelli, quelle persone che vivono in alcune periferie, che appunto sono dediti all'attività estralegale. Anche quelli verranno marchiate e rimarranno lì appunto. Come verranno dislocate? Perché ci sarà uno spostamento territoriale non per rifare i ghetti, però qualcosa di simile, per ghettizzare, cioè portare in zone cittadine o del piccolo villaggio eccetera, le aree di popolazione che hanno questo marchio di pericolosi, in modo tenerle da una parte, tenere invece franchi i quartieri o le aree per le persone abbienti. Ecco, questa è la tendenza. Quello, in tutto questo è tutto chiaro, l'unica cosa che non è chiara è che cosa facciamo noi per difenderci da questo cambiamento radicale, forte, sostanziale del sistema repressivo. Che cosa facciamo? Non si sa ancora. Gli unici che hanno fatto che si stanno muovendo su questa cosa sono stati i militanti No TAV, che da tempo loro sono stati un po' il gruppo che hanno sperimentato questo passaggio. Ricordate, no? Ma No TAV ha circa 15 anni di storia. All'inizio sono stati denunce carceri, poi hanno cominciato ad applicare questo cambiamento, firme, arresti domiciliari, non solo in occasione di processi o condanne, ma proprio come misura preventiva, di misura di polizia preventiva. Questo è l'elemento nuovo. E quindi hanno cominciato ad avere queste misure preventive. Le ultime, massificate, nelle ultime hanno deciso di non accettarle. Le firme non le vado a fare, arresti domiciliari non sto a casa, le scansioni di orario, puoi uscire in certa ora, devi rientrare in una certa ora, ovviamente. E questi sono stati, a quel punto scatta il meccanismo della infrangi la legge, si chiama evasione. Se tu infrangi uno di questi obblighi, che sono le firme o il DASPO o il arresto domiciliare o il recarti al lavoro in certe ore e rientrare in altre, se uno infrange questi meccanismi, si dice che ha fatto una evasione, e come tale viene trattata, quindi sta in carcere, perché l'evasione prevede appunto l'andata in carcere, e poi avrai la condanna, no, non è molto alta, è qualche mese, però insomma qualche mese di carcere. Poi riparte la storia, a quel punto dopo qualche mese, due tre mesi di carcere, un mese anche, si esce dal carcere, si ritorna in quella situazione. Questi compagni Notav, non so, probabilmente decideranno e quindi si innescherà un meccanismo che sicuramente può essere interessante, se però venisse fatto un po' in tutto il territorio nazionale, ovunque. Non ci risulta che questo sta avvenendo, non ci risulta che si sia aperto un dibattito serio su questo fatto. Sono anni che ormai questa tendenza è chiara, ma il movimento sfugge ad affrontare seriamente questa novità. In genere si cerca di cavarcela con gli slogan, no? La militarizzazione, la società militarizzata, che ci stanno che vogliono distruggere il movimento, tutte queste cose, a parte abbastanza non vere, non è quello il problema. Non è questo il problema, non è che vogliono distruggere il movimento, non è quello il problema. Il problema è che vogliono riportarlo nell'ambito della cosiddetta legalità. Cioè, non è che ci stanno i carri armati in piazza come nel 77, non è che ci stanno le leggi speciali o i processi speciali come nel 77, non è che la polizia spara in piazza come nel 77. Allora volevano distruggere un movimento e l'hanno distrutto. Qui vogliono semplicemente, finora, fino a come stanno adesso le carte, portarlo nell'ambito della normativa esistente. Si può fare conflitto sociale, ma secondo le regole stabilite dallo Stato, secondo la cosiddetta legalità. Fai lo sciopero, fai la manifestazione tranquilla, pacifica, autorizzata, contrattata con la polizia, poi ci si aprirà un tavolo, fai il tavolo, cioè, e non ottieni niente, però insomma quello è l'andamento che possono accettare. Altre cose non le accettano e quindi scatta la repressione. Il meccanismo è questo, ci pare che ci sia una carenza da parte del movimento rispetto a queste novità. Allora, 15:32:33 quasi, questa è sempre la conta, trasmissione contro il carcere. Fino adesso abbiamo fatto dunque un po' il punto sulla, al di là dei fatti di cronaca su cui abbiamo provato a riflettere, però sulle tendenze, l'andamento del sistema repressivo e le grosse novità che porta e la difficoltà di confrontarsi con questa situazione. E però questo è un po' il tema che da adesso in poi secondo noi andrà curato. Veniamo un altro problema, quelli delle cose dentro il carcere, perché ovviamente le cose dentro il carcere, al di là che il carcere va rigettato nel suo complesso, sono tantissime le cose che non vanno, tantissime. Ce n'è una che è drammatica, quella ovviamente economica, i soldi. Allora, ci sono 12.000 detenuti, 12.000 persone detenute che lavorano in carcere in qualità di dipendenti del Ministero della Giustizia. Sono 12.000 persone che hanno un contratto e che a fine mese riscuotono un salario che lì si chiama mercede. Indovinate più o meno di quanto? Circa 100 euro, anche meno. Perché a queste 100 euro, centinaia di euro, oscilla intorno ai 100 euro, che diventano minori perché si applica, e questo è divertente, no? Si applica la quota del mantenimento. Sapete, l'abbiamo detto mille volte, anche all'inizio molti ridevano, non credevano, che le persone che vanno in carcere devono pagare il loro, contribuire a pagare il loro mantenimento. Perché? Perché il carcere fa un servizio a te, ti prende, ti porta con sé, ti toglie tutto, vabbè, però loro dicono che ti aiuta a rieducarti e reinserirti, quindi come se fosse una scuola serale tu la devi pagare, e questi soldi, le dritta o distorta, te li tolgono, insomma, no? Se sei dipendente del carcere, cioè lavori in carcere, te li tolgono direttamente sulla busta paga. Recentemente sempre questo stesso ministro Orlando ha raddoppiato la quota del mantenimento, perché era ferma da un po' di anni, e dice dovevo farlo perché i conti, la Corte dei Conti e qua l'Anzo hanno detto di dare la soluzione amministrativa a questi fa, non possiamo abbandonare. Perfetto, allora Beppe Battaglia, che è un compagno bravissimo del Toscana e che si botte questo, ha scritto un articolo su Ristretti Orizzonti che dice va bene, hai adeguato il mantenimento, la quota del mantenimento, che quindi è molto, è il doppio di quella di prima, perché non adegui anche il pagamento salariale delle persone che lavorano in carcere? Domanda. Il pagamento delle persone che lavorano in carcere, questi sono i lavori cosiddetti domestici, ossia quelli che fanno che puliscono il carcere, i cucinieri, i giardinieri, quelli che fanno piccole manutenzioni agli immobili, gli scrivani, gli addetti alla spesa, eccetera, cioè i lavori che mantengono in piedi il carcere, che la fanno gli stessi detenuti e che vengono pagati una miseria, vengono pagati. Allora, hanno tutti un impiego part-time, e questo uno può dire va bene, ma il problema è che il salario, ossia la mercede stabilita per ogni ora lavorata per queste persone che lavorano in carcere, risale a oltre 30 anni fa, 40 anni fa. Allora, secondo le leggi di allora, calcolata come un terzo della paga esistente fuori. perché dicevano questo? Loro dicevano: ti do il 30% della paga, diciamo, sindacale per lo stesso lavoro da esterno, perché non devi pagare casa perché stai in carcere, quindi non devi pagare la luce, il gas, le bollette. Vabbè, a parte che poi non è vero, perché la quota con mantenimento i soldi te li levano, non totalmente, ma insomma ti levano un bel po' di soldi. Insomma, siamo veramente alla ridicolaggia. Allora dice: vabbè, visto che è caro ministro, visto che è adeguato la quota del mantenimento carcere raddoppiandolo, perché non fai altrettanto con la Mercedes, ossia il salario delle 12.000 persone che lavorano per il ministero nelle varie carceri, però sono dipendenti del Ministero della Giustizia? Domanda a cui il ministro non ha risposto. Dice che ci stanno i soldi, eccetera, vabbè. Comunque, dice che insomma la cosa drammatica è che, e questo è il punto da cui è partita questa bella lettera che ha scritto Beppe Battaglia, dice: ma attenzione che nelle carceri del sud, laddove ci sta il fenomeno del caporalato, dei raccoglitori di pomodori, di frutta, di cui se ne parla, perlomeno chi ascolta questa radio la conosce, perché Campagna in Lotta, c'è un movimento che aiuta l'organizzazione di queste persone, quasi tutti immigrati, che vengono pagati una miseria, gli viene rubato parte del salario col caporalato, sono tutte queste cose qui. Tuttavia, dice, i dipendenti del Ministero della Giustizia che lavorano in carcere guardano con invidia i raccoglitori di pomodori e di frutta fuori, in mano alla mafia dei caporali, perché prendono di più di loro, perché insomma, questi prendono circa meno di 100 euro al mese. Questo è un po' il quadro. In tutto questo, qui però non c'è, ci ricordiamo una storia di qualche settimana fa, ricordate che nelle sue ultime battute quella montagna di miserabili che era Equitalia, che si sta chiudendo, per fortuna la sta chiudendo, perché era quella che lasciava stare i ricchi e attaccava i poveri levando i soldi, perché questo ha fatto bene, addirittura ha attaccato questo salario di 100 euro mensili a un detenuto togliendolo perché c'aveva un vecchio debito con Equitalia. Questa è Equitalia, no? Per essere chiari. Vabbè, banda di criminali, ovviamente, al servizio dello Stato, però insomma. Quindi questo è il problema. Ora è divertente questa lettera, perché insomma dice: ma ti pare che le persone dipendenti dal Ministero della Giustizia devono guardare con invidia quegli schiavi massacrati dal caporalato che raccolgono i pomodori? Perché comunque quelli super sfruttati, schiavizzati e altro prendono più delle centinaia di euro che prendono i dipendenti della giustizia nelle carceri italiane. Subscribe, control the model. And the father, what does he do? The father. He does business. His wife does need to discern the war. He is a yes. He finds his wife natural, the father. Familia, familia, familia, familia, familia, familia, familia, familia. Allora, a proposito di questa questione delle mercedi o dei salari per dei detenuti che lavorano, si chiamano mercedi, comunque sempre salari sono, e di tutto del pagamento, questa lettera diceva che si prendono intorno ai 100 euro mensili, che fa abbastanza ridere. Ebbene, siamo al telefono, ci ha telefonato un compagno che Vittorio, che dell'associazione Papillon, che da tempo si è occupato di questa cosa, ma che hanno anche vinto una causa contro l'amministrazione carceraria sul problema delle mercedi. Dici tutto, Ito. Sì, ciao a tutti. Noi ci accorgemmo nel 97 che praticamente la paga oraria era ferma al 93, ottobre 93, secondo noi. Chiedemmo al ministero le carte per verificare la cosa. Al ministero c'era ancora Margara, poco prima che venisse licenziato dal grande rivoluzionario Diliberto. E Margara ci dette tutta quanta la documentazione per verificare che non era vero che era ferma a ottobre del 93, ma bensì al marzo del 93. Abbiamo iniziato quindi un'avvertenza sindacale, un'avvertenza pilota con alcuni iscritti alla Patreon, chiedendo che per tutto il periodo durante il quale loro avevano lavorato dentro il carcere, praticamente si facesse il calcolo della differenza tra la paga sindacale effettivamente dovuta e quella che in realtà era stata versata dal ministero. Lanciamo questa cosa inizialmente con la CGIL, che ci fece tutte quante, diciamo, i passaggi legali. Abbiamo fatto anche assemblee dentro il teatro di Re Bibbia con i detenuti e via dicendo. Nel 2004, dopo varie, insomma, botta risposta, rinfalli da parte della magistratura del lavoro, della magistratura di sorveglianza, diciamo, abbiamo vinto. Nel 2004 la Cassazione afferma che i signori Tizio e Caio hanno perfettamente ragione, questo è il calcolo di quanto gli è dovuto, e questa cosa diventa per noi un punto di riferimento per rilanciare la battaglia sul piano generale, dal punto di vista sindacale, e fare in modo che non soltanto i detenuti che in quel momento, gli 11.000 rotti che in quel momento lavoravano dentro il carcere, ma anche tutti quelli che avevano lavorato dentro il carcere negli anni precedenti, potessero rivalersi verso il ministero chiedendo il calcolo della differenza, e quindi riuscendo ad avere ciò che gli era dovuto. Questa cosa qui noi l'abbiamo lanciata sindacalmente insieme ai compagni dei COBAS all'inizio del 2005, e sono arrivate centinaia, insomma, di richieste un po' da tutta Italia. Poi chiunque voleva, avendo come riferimento una sentenza della Cassazione, poteva anche farlo individualmente, insomma, quindi dalle Alpi fino alla Sicilia, chiunque poteva rivalersi di questa cosa. Nel 2006 il governo di centrosinistra aveva come sottosegretario Manconi, che era uno dei più attenti, insomma, formalmente a questa roba qui, e nella sua segreteria c'era l'allora presidente di Antigone, Stefano Anastasia, il quale assicurò ai compagni dei COBAS, e i compagni dei COBAS si bevettero questa cosa in realtà, perché fu probabilmente una leggerezza da parte loro, assicurò che erano stati stanziati da parte del governo 27 milioni per poter compensare tutte le richieste che in un qualche modo sarebbero già stavano arrivando e avrebbero continuato ad arrivare al ministero, per l'applicazione di un diritto, insomma, Questa cosa qui in realtà non avvenne, e questa battaglia dal punto di vista sindacale è ancora tutta aperta. È ancora tutta aperta, cioè se ci fossero forze sindacali che vogliono mettersi a lavorare seriamente su questa roba qui, è una battaglia che ha una strada spianata, aperta, c'è una sentenza di Cassazione che ha stabilito che i detenuti che hanno lavorato dal 93 in poi dentro le galere hanno diritto al calcolo differenziale, insomma. Esatto, sì, e questa cosa qui è importante perché in un qualche modo, come dire, era una novità e sarebbe ancora oggi una novità, insomma, dentro le galere, e potrebbe anche aiutare a ricostituire, come dire, un senso di unità tra i detenuti. Certo. E tra i detenuti e il mondo esterno. Certo. Anche perché potrebbero fare le vertenze collettivamente, conviene di più perché ti ci vuole un avvocato, perché spendi di meno e perché la certo, volta... No, i Cobas cioè, su questo erano stati certo, bravissimi, perché sì, tutto so. Quanto l'appoggio, come dire, legale era gratuito per i detenuti, e quindi, come dire, erano vertenze collettive. Poi ovviamente il ministero non è che stava lì fermo a guardare, il gioco a palla era tra la competenza della magistratura del lavoro e la competenza della magistratura di sorveglianza, certo. E quindi si rimbalzavano la palla, però alla fin fine, una volta che tu hai come riferimento una sentenza della Cassazione, tutto diventa più facile, infatti. Insomma, anche sindacalmente, poi dopodiché si tratta apposta di lavorare, organizzare dentro i singoli carceri, perché non è che poi la galera sta lì ferma a guardare te che ti organizzi, insomma, anzi minaccia tutto il cerca di annullare, certo, cerca di annientare i processi. Era una bella occasione di battaglia collettiva che probabilmente noi abbiamo anche provato ultimamente a verificare se esistevano forze che volessero farlo, insomma è una bella battaglia collettiva che in qualche modo secondo me vale la pena, insomma, di ritentare, insomma, piano piano, verificando la disponibilità soprattutto nei grandi carceri, ovviamente, però una volta che ti lanci, ripeto, voglio dire, se gruppi di detenuti, anche laddove non esiste un sindacato attivo, vogliono organizzarsi e avere come riferimento un gruppo sindacale di Roma o di una grande città, possono farlo, e in qualche modo, come dire, implicano la loro forza, insomma. Certo. Quindi vabbè, facciamo nostro questo appello e lo lanciamo, che se dovunque nelle carceri sentite questa cosa, che volete organizzare, dunque o trovate rapporti con Papione, che sta più o meno in tutte le carceri, c'è qualcuno che rappresenta questa associazione, con gruppi di avvocati, esatto, legati a gruppi sindacali, certo. I gruppi sindacali intendiamo sindacati di tutti base, i tipi, insomma, ragazzi, di base, e noi la lanciamo all'epoca con i Cobas, perché, come dire, avevamo un giudizio estremamente positivo su di loro, insomma, certo. E quindi da questo punto di vista qui loro si comportarono seriamente, insomma, nel lavoro proprio di organizzazione, di raccolta delle lettere, eccetera, eccetera. Dopodiché, a nostro avviso, commisero questa ingenuità, insomma, di dare retta alla segreteria del sottosegretario, insomma. Perché probabilmente, insomma, molte volte l'inesperienza, insomma, conta, perché non ci si rende conto che a volte anche ciò che all'apparenza fuori risulta come volontariato, eccetera, in realtà è un intreccio di cooperative, associazioni, e dicendo, che noi definiamo parassiti del disagio sociale, insomma, non è che sono cose diverse, e in quel caso furono, come dire, personaggi della segreteria del sottosegretario Manconi che bloccarono questa possibilità di generalizzazione della lotta. Certo. Va bene, si può ripartire. Quanto. Ti ringrazio, Vittorio, e speriamo che. Ciao, grazie a voi per quello che fate. Ciao, grazie. Ciao. Familia, familia, familia, familia. Allora, il si rimette in moto il cosiddetto piano carceri. Nonostante abbiamo visto che le persone in carcere continuano a diminuire, sono arrivate a 54.000, anche se ultimamente c'è stata una piccola ripresa, l'abbiamo detto, si era arrivata a 52.000 e qualcosa, qualche centinaia, poi è risalito un po', perché sono disfunzioni, anche perché appunto tutto il blocco che poi produce carcerazione, che riguarda quindi la magistratura giudicante, la magistratura di sorveglianza, che è quella che deve applicare le leggi per passare a misura alternativa, insomma tutto questo è abbastanza farraginoso, non tutti sono concordi in questo passaggio e comunque c'è un sistema da oliare. Sta di fatto che appunto, ma per tutt'altro motivo il piano carceri si rimette in moto. Il piano carceri è quello di dire: va bene, partì allora, quando in maniera veramente abbastanza assurda il numero della popolazione detenuta era arrivato a 69.000, quindi emergenza sovraffollamento che fece strillare tutti gli organismi internazionali, eccetera, stavano uno sopra l'altro, ricordate, eccetera. Ebbene, che probabilmente i soliti cattivi pensatori, che però ci azzeccano quasi sempre, dissero: forse l'hanno fatto apposta a far così, no, a lievitare la presenza in carcere, perché questo fatto poi venne portato al Parlamento e il Parlamento stabilì l'emergenza carcere. Emergenza carcere che non è che significava qualche che davano un aiuto ai detenuti, ma che significava che tutto il meccanismo degli appalti per fare nuove carceri o ristrutturazione delle vecchie sarebbe andato avanti più velocemente, senza tutti i passaggi, cioè in maniera, il controllo sugli appalti per le nuove carceri sarebbe stato più leggero, è quello che interessava ai palazzinari. Poi la cosa fu bloccata perché appunto ci fu questo meccanismo delle leggi svuota carcere che hanno ridotto la presenza e quindi si è un po' arenato. Adesso riparte il piano carcere sul discorso non tanto che bisogna svuotare, che bisogna creare altri posti carceri perché c'è sovraffollamento, ma perché dice ci sono molte carceri molto vecchie, il che è vero, la media delle carceri italiane ha più di 50 anni, 60, 70 eccetera, addirittura come Regina Celi ha dei secoli di vita, ebbene bisogna fare carceri nuove. Questo meccanismo fu analizzato allora quando uscì fuori il piano carcere, era una delle più grosse truffe, perché appunto il carcere costa tanto, perché ha dentro molto, molto materiale, cemento, ferro eccetera, e c'è i sistemi di allarme con tecnologia raffinata che costano un sacco di soldi, e quindi le aziende costruttrici di carceri erano contente di questa ripartenza. Poi si fermò tutto. Adesso pare che sta ripartendo questa cosa. È un po' un sospetto, perché a parte soltanto però per ora a livello di progettazione. Il meccanismo sarebbe quello di fare in modo che dei privati costruiscano carceri con i soldi loro, in modo che non c'è esborso da parte dello Stato, e poi la affittano questo edificio allo Stato, perché in Italia le carceri sono statali e saranno sempre statali, perlomeno finché esistono queste leggi, però le costruiscono delle ditte private completamente, e poi affittano quegli edifici allo Stato, che paga un esborso spaventoso, un affitto annuale altissimo, per cui questi fanno i soldi 10 volte di più di quelli che hanno cacciato che hanno speso per costruire quel carcere. Questo è il meccanismo. Adesso la cosa sta ripartendo, semplicemente non sul motivo del sovraffollamento, perché non c'è più, ma sul motivo del ci sono carceri vecchie che vanno fatte quindi reparti nuovi con tecnologia raffinata, tutte queste cose qua, e quindi si stanno, come dire, leccando le labbra, i baffi, i costruttori edili, che sono sempre quella cerchia degli amici, degli amici, degli amici. Vedremo che succederà. Sicuramente i famosi 18 tavoli, ce n'era uno, non a caso il numero uno, che era si riferiva all'architettura delle nuove carceri, perché è venuto fuori pure questa questa follia ottocentesca, anche settecentesca, del fatto di dire che se l'architettura, cioè il posto dove vengono inserite le persone, ha delle caratteristiche, questo facilita la rieducazione della persona. Una follia spaventosa che fa parte di tutto quel discorso che fa capo al fatto che il delinquente, quello che viola la legge, è un malato, va curato, e quindi vanno fatti dei luoghi molto più simili all'ospedale che al carcere in cui inserire queste persone, cioè una cosa veramente allucinante, che tra l'altro fa spendere ancora più soldi, e pare che questa cosa stia rimettendosi in moto. Lo vedremo, perché appunto i tempi ci spiegheranno chi è. Il tavolo 1 era proprio sulle forme di architettura delle nuove carceri, che se, con questa invenzione spaventosa di dire che un modo di costruire una certa fisionomia architettonica delle carceri favorisce la funzione prioritaria del carcere, ossia quella di rieducare la persona che sta dentro. È quello che fece questo della rieducazione, è quel meccanismo che produsse l'isolamento cellulare, il carcere come isolamento cellulare, cioè in ciascuno in una celletta sola, perché doveva permettere il raccoglimento con i testi biblici, religiosi davanti, doveva permettere il ravvedimento, il ricongiungimento col divino, tutte queste baggianate qua. Bene, questa è la cosa. Noi però siamo arrivati quasi alla fine della trasmissione, vi facciamo sentire però una vecchia canzone molto dura nei confronti del carcere, perché insomma allora in quegli anni, parliamo del 1974, ci fu un attacco pesante da parte dello Stato nei confronti del movimento dei detenuti, che era diventato molto forte, molto interessante e molto vasto. Però insomma, ascoltatela. Noi non sapremo mai quale sia stata la sua orazione, mentre a un passo dal cielo gli hanno sparato come a un piccione. Forse non ha potuto gridare boia a chi la ammazzava, mentre la vita rossa colava giù per le tegole nella grondaia, mentre la vita rossa colava giù per le tegole nella grondaia. Mentre stridono le rondini sopra Firenze la sua agonia, un prete falso dentro una chiesa affida i morti a un'Ave Maria. Dietro le mura spesse delle murate si piange ancora per quei 20 anni di vita spenti da un tiro a sé.